Il legno. F. Ascolta il testo. La lavorazione del legno, molto diffusa nella Valle d'Aosta, nasce proprio dalle esigenze degli antichi contadini della zona. I valdostani, a causa delle difficoltà ad avere contatti con altre regioni, hanno dovuto fabbricarsi gli attrezzi di lavoro e gli oggetti di uso domestico con il legno che la natura da sempre mette a disposizione. Oggi, in questa regione, si trovano delle lavorazioni raffinate ed artistiche, fatte di legno di pino, cembro, noce, castagno, acero, ciliegio e melo. Gli artigiani producono mobili per la casa, attrezzi artigianali, utensili da cucina e giocattoli. L'intaglio in legno crea oggetti di tutti i tipi, da statuette di animali ai tipici sabot, che sono degli zoccoli fatti interamente di legno.